Una buonasera a Radio Città Fujiko in compagnia di Max Macchia, forse è meglio dire buonanotte, visto che sono insomma le 24 per i non nottamboli. In effetti parlavo prima con Luigi, magari stanno, come dire, scomparendo un po' tipo come le mosche bianche, o perlomeno insomma non ci sono più gli studenti di una volta che si alzavano, che ne so, alle 3 del pomeriggio, alle 4, no, sto scherzando. In realtà è vero, non ci sono ancora, ovvio, che, come dire, è un ricordo oramai lontano, appunto di quello stavamo parlando, salutando Luigi con il suo pop. E questa sera 451 frammenti sonori, mia compagnia si occuperà non di nostalgie ma di ipertrofie, ovvero attitudini assolutamente espanse, amplificate e portate quasi a un livello morboso. Avremo modo insomma di ascoltare quindi faccende che vanno da un certo tipo di noise a uno svisamento di certe attitudini che potremmo definire post-industrial e wave deraglianti, con tutto quello che insomma è il rimando di musiche che si nutrono insomma di fatto, anzi si ipernutrono, si ipersviluppano proprio su un'attitudine che non è mai doma, anzi addirittura eccede. E poi parlando di figure eccezionali a livello musicale e soprattutto per questa ridondanza che potrebbe anche alla fine portare una sorta di così anche forse di macchiettistica situazione musicale. Qua veramente andiamo quasi sulla morbosità, se la morbosità appunto non si trasformasse anche appunto quasi in così una sorta di gioco anche a volte quasi demenziale, quasi parodistico, ecco, di un noise, di una attitudine espressionista con farmaco con cui iniziamo questo viaggio dentro l'ipertrofie. Trova tanta di Amanda Galas, che però appunto diventa quasi una sorta di parodia della stessa, visto insomma un'attitudine fin troppo eccessiva che sfora poi verso anche altri lidi, un'attitudine al noise pestato elettronico che insomma scimmiottando già personaggi paradossali come Prurient, Wolf Eyes, nella loro versione più commestibile, diciamo così, oppure certe situazioni insomma di Vatican Shadow, appunto parlando di un Prurient più commestibile, e come anche certe wave che si sono ritratte dentro certi fuck bottom, però appunto tutto molto più slabbrato, tutto molto più eccessivo, portato a un punto di ipertrofia, quasi a una sorta di esplosione narrativa del discorso appunto di Pharmacon, che comunque mantenendosi su questa demarcazione, su questo crinale anche piuttosto pericoloso, ci fa comunque ascoltare ancora insomma, una musica che può essere decisamente creativa. Tra l'altro stampa per la Sacred Bomb, quindi anche qua i riferimenti al noise americano, Factums, Zola Jesus, ecco, per citare ad esempio un'altra delle prime donne della Sacred Bones, che poi tra l'altro si è anche molto, come dire, alleggerita nel suo anche diventare sempre più glam, che forse la cosa possa andare anche così per Pharmacon, potrebbe anche darsi. Per il momento comunque siamo all'ipertrofia, un momento appunto di grande amplificazione di certe suggestioni e di certi rimandi, di certi riferimenti, quindi siamo ancora su una faccenda decisamente interessante, come appunto questo Abaddon che ce l'andiamo a sentire appunto per iniziare questo lungo viaggio, soprattutto perché insomma sarà piuttosto tremendista, fatemi passare il termine senza per forza dire tremenda e basta. tremendista, perché insomma c'è anche, come dire, una sorta anche di attitudine e di volontà ideologica dentro queste musiche così rivoltate e rivoltanti. un'attitudine assolutamente ipertrofica, quella di Pharmacon, che nutrita probabilmente ad ascolti, continui anche ascolti di Wolf Eyes, di Noise Americano, di voglia anche poi di arrivare appunto dove è arrivata con una produzione anche importante come quella di Sacred Bone, a portare a un eccesso, appunto a un quasi sconvolgimento legato appunto a questo a questa eccessiva appunto attitudine noise, e in alcuni frangenti anche appunto espressionista, con questa voce che va a diventare una sorta di lamento, di sbraitare, rumorista anch'esso dentro appunto una struttura che anch'essa si fonda appunto su questo eccessivo nutrimento di appunto materie rumoriste e quant'altro appunto legato ai deragliamenti musicali degli ultimi anni. Staremo comunque a sentire che combinerà Pharmacon, che tra l'altro è uscita anche da poco con un ultimo lavoro, e forse un pizzichino più avveduta e meno insomma ipertrofica sicuramente lo è stata, ma tant'è che insomma questa sera, e forse anche in maniera sensata, ci interessa più questa traccia di Abandon del 2013 e altri personaggi che sono assolutamente ipernutriti, non tanto da noise americano. Prima si citava Prurient, Wolf Eyes, che tra l'altro tra poco arriveranno a martoriarci le orecchie, ma più vicini a certe situazioni ombrose, grigie, quelle zone grigie create da certo post industrial, pensiamo a Chris & Cosey, a faccende insomma legate a Cold Wave, che andavano a incrociarsi con appunto le sperimentazioni legate al rumorismo industrial. Altro gruppo potrebbe essere, tra l'altro con un solo disco, questa sera ci sarebbe stato anche bene, chissà se non riusciremo a recuperarlo, ma quasi sicuramente Radio Fear Europe ad esempio, e quella metronomia che diventava una sorta di paranoia, di incedere, che appunto chiudeva quasi un suono rendendolo morboso, quindi nutrendo questa metropolitanità, questa urbanità desolata e desolante, appunto ricordiamoci insomma i primi Chris & Cosey, che prendevano dai Throbbing Gristle proprio quell'atto più futuro espressionista, potremmo dire, appunto dentro sì un futurismo musicale, ma anche col senso oppressivo e non eccitato e sovraeccitato dei futurismi legato alla macchina, alla metropoli, ma appunto anche al grande K espressionista della macchina che poi diventa anche sistema, sistemico. Emplex chiaramente non riportano i livelli di paranoia a quei punti di non ritorno, evidentemente, e stampano per la Modern Music, cosa che c'entra molto con questo discorso, perché la Modern Music da tempo che si occupa proprio di questi rimandi mnemonici. Uso il termine mnemonico non a caso, perché si occupa anche proprio di memoria sonora, recuperando personaggi come Todd Dockstader, ad esempio, è uno dei grandi padri del rumorismo, di tutto il rumorismo, ma anche appunto con Modern Music, lo stesso progetto, quei suoni che riprendono vecchie strade magari abbandonate oppure mai percorse fino in fondo, reinventate, anche perché no, c'entra anche qua un discorso che però è all'atere, che è quello ipnagogico, ma questa sera insomma ci interessa appunto più la faccenda di ipernutrimento, di un'alimentazione spropositata, quindi questi organi musicali labiali che diventano morbosamente ingrossati, quindi vanno quasi su una sorta di esplosione. Emplex portano appunto a questo limite il suono di certa cold wave, di certi crisencose, ricordando e anche smontando poi quel meccanismo che ovviamente legato poi al passare del tempo, quindi alla memoria storica anche di certi percorsi musicali, di certe attitudini, poi diventa chiaramente più meditato, però insomma sempre di ipertrofie stiamo trattando. E come appunto ci andiamo ad ascoltare, così avremo modo insomma di ingrassare in questo caso il nostro orecchio musicale. Send Derek the details. Why I'll be another basic character. Get on the It's bleak. Half-life rural subpoena. It's bleak. It's really sad when women go bald. Even sadder when men fall under the spell of the syrup. Half-life rural subpoena. Banks and Rutherford discussing video gate analysis on Charterhouse's main lawn. Abacabacus. Abacabacus. Lost and found stolen classics from a bygone tomorrow. Some light aging around opening. VG Plus. Stop diving, you cheating cunt. Stop diving. Stop diving. Clarence's ancient junk. Half-life rules. Abacabacus. it's bleak. Vertical archery, finch ball, skip out, wireless, hairless, contactless, gutless. It's bleak. Questing in reverse on southern bell towards the Keeneland Mafia, whilst hallucinating full-run portraits of both Tibet for Uniqlo. It's bleak. Keep an eye on my laptop while I have a piss. It's bleak. And subscribe to Soviet Time. It's bleak. Dal loro Your Crate Is Changed. E, beh, qua, come dire, nutrimenti che vengono direttamente dall'area grigia, dalla grey area della Mute Record, e tutte quelle sonorità, insomma, che andavano a ricostruire poi un immaginario, come abbiamo detto prima, futuro espressionista, appunto, dentro un'idea di futuro assolutamente forte, anche concretizzato poi con sonorità che portavano e spostavano verso un'avanguardia appunto sonora e poi appunto quell'aspetto di angoscia e di anche grande cappa che creava anche grande suggestione a queste musiche, quella legata appunto alla macchina, al funzionamento della stessa macchina, che non era appunto solo la macchina inteso come mezzo meccanico, ma anche proprio macchina come macchina sociale, macchina industriale, macchina che diventa sistemica di fatto. Amplex con il loro disco per la Modern Music vanno appunto a riportare riportano l'orologio a quel punto e quasi un orologio che si è rotto e che quindi immancabilmente a un deragliamento temporale, insomma, nella negazione sia del passato che del futuro. Forse può questo anche il concetto che sta dietro Modern Music, sia come etichetta che come gruppo musicale, progetto, e anche dietro la sperimentazione di Amplex, che va a prendere tanto da quel percorso, trasformandoli in un incubo che poi non è mai finito, non è mai terminato, in questo senso, insomma, l'orologio veramente si è rotto. E se di orologi si deve parlare di orologi appunto rotti, sicuramente quelli di Wolf Eyes dall'inizio, anzi volutamente hanno rotto gli orologi, creando già alla fine degli anni 90, primi anni zero, uno dei momenti più forti, più dirompenti delle scene, insomma, degli ultimi anni, legate appunto alle altre musiche, musiche anche che tante volte si sono fatte antagonista per i nostri americani, musiche che altre volte si sono fatte sperimentazioni anche piuttosto ardite, tra riferimenti impossibili di certo metal che poi abbiamo trovato come scheggia dei suoni immaginari ipertrofici anche prima con Scott Walker e Sanno per qualche secondo, ma d'altronde mercoledì scorso avevamo proprio aperto con loro, e ipertrofie quelle visionarie di Wolf Eyes che vanno appunto da certo metal estremo assolutamente intrattabile e improbabile anche per molti aspetti come certi Manowar che vengono presi insomma come provocazione, ma non solo come tale, anche come proprio attitudine assolutamente negativa nel loro essere così esasperati, così ipertrofici, poi un immaginario legato a tutta la power electronics, quindi veramente a suoni, a ultrasuoni anzi, che vanno a impattare direttamente con il noise più brutale, più becero, e poi momenti di grande anche sperimentazione to cure, pensiamo insomma al disco meraviglioso con Anthony Braxton, ma anche momenti pararocchisti con i dischi per la Sub Pop come Human Animal, Wolf Eyes, che My Domi continuano a stampare dischi sempre più belli probabilmente, ma anche più così liberi da fenomeni che per un momento, ma soltanto per un momento, avevano colpito anche Wolf Eyes, creando quasi una sorta di hype sul gruppo, ma si è decisamente sganciato proprio per questa attitudine che è assolutamente fuori dai ranghi, fuori insomma dalle recinzioni, e decisamente ipertrofiche come le loro musiche, le loro continue scorribande, tra l'altro 4-5 dischi all'anno come al solito, insomma dal 98 in poi per Wolf Eyes, più o meno validi, ma di certo insomma la qualità media è assolutamente eccelsa, come questo No Answer Lower the Floor, anzi siamo veramente a un ottimo momento per Wolf Eyes a livello di sperimentazione sonora, a livello proprio di anche consumazione, nel senso anche buono del termine, del loro immaginario, e quindi di riuscire veramente a padroneggiare, di farne poi una materia anche originale, partendo appunto da grandi momenti storici musicali. Prima citavamo appunto certi Chris & Cosi del primo periodo, Radio Free Europe, ma insomma i riferimenti possono essere vari e tanti, legati a quella fine degli anni 70, primi anni 80, che dentro l'immaginario di Wolf Eyes, e non solo evidentemente, e a livello sonoro anche dentro Farmaco, dentro Amplex che abbiamo ascoltato prima. Per il momento comunque andiamo a tuffarci nello spietato, ma assolutamente seducente, se non, forse non mi tirassero una pietra se sentissero a questo termine, Wolf Eyes, suono assolutamente eccessivo ed eclatante.